questa tira? Inaspettato avviso. La plebe aduna, e me con questo giorno che sta tira sul cielo. Regni l'augusto sogno. Per dar contrario il regno ancor non voglio. I correggi, i col volgo, i si nell'urna compagno e gli sarò. Sempre costei temeria sconvolge i nasi miei. Se speri di baciarli quegli occhi che ti inganni, il sino mi piagarà bella ti inganni, bella ti inganni. Se speri di baciarli quegli occhi che ti inganni, il sino mi piagarà ti inganni, ti inganni, ti inganni, bella ti inganni. Ogni oceano sotto l'ombra degli astri l'aura in ghirlandata diate volinda ai popoli soggetti le nuove leggi ed il tributo aspetti il genio la ricusa o oh no così ti impongo oh magnanima o oh giusta viva coppia si bella digiuno tosto ma tu ripari noi e cari se vuoi regnar questa superba uccidi se pensi che io baciar voglia per voi di voi il seno ti piagar e la ti chiami.